effetto. Qua cerco di metafore che esprimono un concetto. Assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! E ciao, ben trovati e ben trovate a tutti i nostri amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat che si trovano sempre sullo spazio radiofonico della Stampa Rassegnata. Come ormai avrete capito, abbiamo dedicato questa estate di ascolti a una rivisitazione, se così possiamo dire, degli eventi di Genova 2001. Abbiamo fatto dei commenti informati, li abbiamo fatti su quello che fu il ruolo della stampa e dei media mainstream prima e dopo Genova, grazie ad una trasmissione recuperata dall'archivio di Radio Onda Rossa, e poi lo abbiamo fatto nuovamente con un'altra trasmissione, sempre da Radio Onda Rossa, un live dell'Assemblea Nazionale della campagna 10% che sosteneva il processo contro i prima 25, poi 10 manifestanti accusati di devastazione e saccheggio per i fatti collegati alla resistenza di piazza, agli scontri e alle azioni dirette svoltesi durante i 3 giorni di mobilitazione. E lo abbiamo ricominciato a fare nuovamente con un'altra trasmissione che ho dovuto spezzettare in più parti e di cui oggi mandiamo la seconda parte. È un talk, una chiacchierata abbastanza informale, quindi anche abbastanza spontanea, che mi è piaciuta anche per questo rispetto agli interventi che arrivano da parte del pubblico e alle domande e interventi ai quali rispondono dal palco del, diciamo, dei relatori, sia Francesco Romeo, avvocato del, diciamo, di un supporto legale che dopo Genova seguì per l'appunto i processi contro i manifestanti del accusati per l'appunto, scusate la ripetizione, per il reato di devastazione e saccheggio, quindi avvocato della campagna 10%, risponde soprattutto Daniele Vicari, regista del film Diaz, Non cancellare, non pulite questo sangue. Fa una serie di interventi che continuano anche in questa seconda parte dell'intervista che manderò oggi, più che intervista chiacchierata come ho detto, sono molti gli interventi, la trasmissione parte subito a bomba con un'altra domanda, sentirete che il film non è come appunto come è stato presentato, un film molto chiacchierato, molto discusso, che lascia delle domande aperte e non risolte, e infatti anche tra il pubblico c'è chi è entusiasta e chi fa i complimenti per il film e chi è assolutamente contrario o comunque esprime molti dubbi. Io non mi esprimo nel merito del film, mi limito a consigliarvi di guardarlo. Consigliandovi di guardare Diaz, Non pulire questo sangue, vi consiglio per forza e per obbligo di guardare anche il documentario di Carlo Bachmit, che è citato più volte anche da Daniele Vicari in questa trasmissione, riguardante appunto un lavoro di, diciamo, di recupero della memoria su alcune delle persone che furono coinvolte vittime delle torture nell'assalto da parte della polizia italiana alla caserma di della scuola Diaz e poi trasportate a Bolzaneto. Chiaramente con questo e su questo Daniele Vicari fa una serie di riflessioni portandoci in quella zona grigia dell'obbedienza all'autorità che tanto è stata indagata con strumenti diversi, da strumenti politici, giuridici, legali, ma anche quelli della psicologia, della sociologia e dell'antropologia dal dopoguerra ad oggi, dal secondo dopoguerra, dal secondo conflitto mondiale, un grande e enorme tema che si apre con il processo di Norimberga e che poi purtroppo è una, ripeto, è una zona, diciamo, grigia dell'agire umano che non è mai stata diciamo risolta. Si sperava forse in quella fase storica di chiudere con certe barbarie con la seconda guerra mondiale, invece queste barbarie si sono ripresentate più e più volte dalle torture praticate in maniera sistematica dalle istituzioni e dagli apparati dello Stato in Argentina per arrivare